ho visto tutta la partita degli europei del 2000, Olanda-Italia, e inizialmente c'era l'inno italiano. Mia moglie mi ha detto, magari non hai cominciato a giocare? No, magari. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Bisogna lanciare un appello anche alla Lega e Serie A sul finire qui polemiche e scontri. Io penso che il calcio debba essere anche in questo momento un simbolo di quello che è sempre, cioè di leggerezza, di passione, di gioco, e debba dividerci solo per il tifo, per le nostre squadre del cuore e non per altro. Questi giorni ancora il comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo dello sport, quindi la FIGC e non solo, per avere gli approfondimenti sul protocollo per gli allenamenti, per la ripresa degli allenamenti che la FIGC aveva proposto. Allora, diciamolo chiaramente, se questo protocollo troverà una sintesi, un accordo tra comitato tecnico scientifico e FIGC, gli allenamenti riprenderanno e questo sicuramente avrà un riflesso anche positivo sulla possibile ripresa dei campionati. Viceversa, sarà il governo a decretare, per motivi di evidente e incontrovertibile emergenza sanitaria mondiale, la chiusura del campionato. Ci assumeremo noi la nostra responsabilità e faremo in modo che anche il calcio, ripeto, come le altre imprese, possa avere meno danni possibili, perché va ricordato che il calcio è una grande impresa del nostro paese. Non c'è dubbio. Questa è una sintesi dell'ultima, ennesima uscita, ce n'è una al giorno, del ministro Spadafora sulla situazione del calcio, ripresa, non ripresa, allo stato attuale delle cose. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Senti Pier, oggi ho deciso, spero che tu sia d'accordo, che parliamo solo di cose belle, perché... Sì, ma noi è il metodo Mollica. Bravo. Il metodo del grande Vincenzo anche, Mollica. Anche perché... Per parlare... delle persone e sì, delle cose che ci fanno essere felici, cercando dei limiti del possibile, ma non riguarda ovviamente tutti i convocati, penso più che altro ai social network. Tante volte, sai, si vedono delle robe e io la mia idea è il metodo Mollica, cioè non si commentano le cose, non si dà visibilità agli scemi, ecco, si parla delle cose belle. Sì, ma anche perché dobbiamo essere obbedienti alle istituzioni, il gemello diverso di Higuain, non so se hai notato anche tu la somiglianza di Spadafora con Higuain. È vero. Il gemello diverso di Higuain ha lanciato un appello cui noi ci atteniamo per finire le polemiche e gli scontri, perché il calcio deve essere, testuali parole, anche in questo momento un simbolo di leggerezza, passione e gioco. Se a qualcuno scappa da ridere è consentito. Ma poi hai già un ospite? No, due. Ah, ok, allora vai. Due, vai, no, perché ti ho detto che oggi voglio solo parlare di cose belle, e una delle cose più belle di questi giorni è la certezza che lunedì finalmente potranno ricongiungersi Ordine e Biasin. Ah, beh. ragazzi, in quanto affetti stabili. E non lo so, questo sicuro, avete fatto l'autocertificazione, ragazzi? Sì, no, io l'ho già indicato nell'elenco dei miei congiunti. Dei tuoi congiunti? Gliel'hai detto, ma gliel'hai io detto, però mi ricongiungo con lui solo e soltanto per un motivo, perché ho visto che in questo periodo si è particolarmente esibito in cucina, e devo dire che insomma alcune sue esibizioni mi hanno particolarmente colpito. Franco, ti ringrazio, però non è merito mio, è merito dell'altra congiunta, quindi mi sa che è meglio se ti congiungi con lei, con me. Sì, però, fra l'altra congiunta e Ordine, dovendo proprio scegliere, chi preferisci? io preferisco l'altra congiunta, che però non è congiunta, ma è coscritta, è in qualche modo agli arresti domiciliari, poverina, perché se potesse evadere, ha scritto in un post, se potesse evadere lo farebbe molto volentieri. Ma in realtà stamattina mi ha detto, vado a fare la spesa che non usciamo da 7 giorni, è uscita alle 10, non è ancora rientrata, per cui secondo me non torna più. Perché non ha specificato quale spesa deve fare. Senti, questo lo appureremo vivendo. Se torna entro breve, avvertici, perché sennò stiamo un po' in ansia. In questo istante ho realizzato che, tra l'altro, io potrei visitare Biasin, perché nella soffitta di Biasin credo che ci siano ancora delle mie cose. Sì, la mia soffitta è piena di materiale pardiano. C'è di tutto, per cui io fra breve apro l'asta, offerte da 5 euro in su. Partecipa, mandami delle foto. Se avessi un posto, ma sai che in questo istante mi è arrivato in mente, chissà che ciò. Forse c'ho anche l'omino del subbuteo dell'Arsenal. Se vuoi ti compilo io il modulo, Pierluigi. Ti compilo io il modulo. Comunque, Franco, il ministro dello sport sta lavorando per mandarti in palestra il 18 maggio. Potresti andarci con Donnarumma o con Cialanoglu. Io ieri gli ho dedicato un messaggio molto particolare, molto affettuoso. Che tu ti sei perso, dopo te lo giro via WhatsApp, perché secondo me quando lo vedi ti pieghi in due. Sì. E io spero che l'appello che ha fatto stamattina alla Concordia, alla discussione, eccetera, sia lui il primo a raccoglierlo, perché questi giorni quello che ha provocato la rissa, tra virgolette, a suon di comunicati, di interventi, di post su Facebook, è stato semplicemente lui. Io stavo leggendo i WhatsApp, a proposito siete sempre invitati, 349-238-6666, anche per far sentire la vostra voce via WhatsApp vocale o con le telefonate 800-24-0024. E ho questo: i campionati vanno sospesi, la stragrande maggioranza degli italiani vuole questo, nessuna promozione, retrocessione. E poi aspetta che l'ho perso, in alcuni casi vedi Benevento, si potrebbe partire la nuova stagione da più 20. Questo lo scrive un ascoltatore dalla Calabria, dove oggi aprono i bar e i ristoranti. Io dico, allora facciamo così: referendum popolare per la riapertura dei campionati, facciamolo per referendum a questo punto. Sì, sì, ma poi però non si rende conto. Posso dire una cosa un po' democristiana in pieno stile, cioè non è facile governare, ragazzi. Adesso, sinceramente, ora che alcune uscite, e l'ho sottolineato tante volte in questi giorni, da parte del ministro, ma in generale delle istituzioni nei confronti del calcio, siano state, secondo me, stonate perché non hanno reso al calcio quel valore che ha, che non è soltanto il valore di un simpatico hobby che ci fa divertire, ma di un settore economico, di un aspetto culturale, di un segnale anche psicologico. Quindi io su questo sapete che sono avvelenato. Dico anche che ci vuole equilibrio. Quindi io senza polemizzare mi unisco all'appello di questa mattina del ministro, cioè cerchiamo di trovare una strada, però cerchiamo di remare tutti dalla stessa parte. Per me la parte verso la quale si deve remare è provare a ripartire, fare tutto quello che è possibile per ripartire, perché ci sono in ballo interessi non solo economici ma anche culturali, psicologici, di identità importanti, e quindi è giusto, e poi anche economici. La filiera è grossa, è sostanziosa, e non è solo lo stipendio di Cristiano Ronaldo, come ripeto mille volte, o di Lukaku. Quindi proviamoci. Poi è ovvio che se il rischio sarà troppo alto, cioè anche negli altri paesi sta avvenendo una discussione su questo. Sì, certo. La cosa certo. che è fastidiosa è vedere il calcio trattato in certi momenti come se fossimo quattro mocciosi che pensano a giocare alle partite di pallone. Non è così. Fa parte del esattamente come i bar, i ristoranti, i concessionari di macchine. Ho letto dei dati ovviamente sui concessionari drammatici, ma in fondo anche naturali, no? Nel senso che chi è che compra macchina adesso si è avuto in casa, e quindi ho letto robe tipo meno 99%. Però se questa cosa dura due mesi non è un dramma, però bisogna ripartire. E così come le aziende automobilistiche pensano di ripartire, i ristoranti pensano di ripartire, perché il calcio non deve pensare di ripartire? Non so se Biasin rema con te, Fabrizio. No, io sono d'accordo sul fatto che si debba trovare un modo per ricominciare. La cosa che mi spaventa un po' è che, siccome ci stanno lavorando da diverse settimane e a oggi siamo al punto del ministro che dice o troviamo un sistema per mettere in atto il protocollo o si chiude, mi sembra di capire che queste settimane di lavoro non abbiano portato troppi frutti, cioè che ci siano troppe variabili per la ripartenza. Però il tentativo va fatto, perché guardavo i dati, stiamo parlando di 300.000 posti di lavoro nel mondo del calcio, 8 miliardi di indotto, 1 miliardo di gettito fiscale, per cui per forza di cose va fatto un tentativo. La sensazione è che però non si riesca a trovare l'incastro perfetto, cioè bisogna perché, a questo punto chiudere qualcuno, gli occhi e buttarsi in campo. Allora, no, secondo me non bisogna, posso dire, secondo me non bisogna chiudere gli occhi o andare in campo a tutti i costi, però bisogna intimamente provarci. E secondo me il motivo per il quale siamo ancora a questo punto è che non tutti ci hanno intimamente provato. Cioè, ci sta, intimamente provando. È stato in atto, c'è stato un muro contro muro fra gente che realmente vuole provarci, qualcuno anche esagerando, secondo me anche con qualche dichiarazione stonata. Io credo che Lotito, quando si è messo a parlare di virologia, abbia esagerato. Sì, però sì. Quel sentimento autentico, che forse Lotito avrà anche perché sogna di vittoria del campionato, ce lo dovrebbero avere tutti, ce lo deve avere tutto il mondo del calcio. Poi, la sensazione che ho io, magari mi sbaglio, è che per qualche club non sia così conveniente tentare di applicare il protocollo. È chiaro, è quello che dice Pierluigi. Perché ragazzi? Perché te ne sei accorto? Vedi. Male. che bello, finalmente! Sì, ma allora, se mi dite, ti sei accorto però, che quelli che remano contro e dicono chiudiamola qui è perché vogliono risparmiare 4 mesi di stipendi e non vogliono andare in Serie B? Franco, congiunto mio, io dico che se c'è un'alternativa, allora io dico proviamo a giocare. Se non si può, e tanti club pensano che ci sia un'alternativa, cioè interrompere e salvare il replicabile, fammi sentire, fa replicare al tuo congiunto ordine. Vai. Allora, Fabrizio, la prima cosa da dire è questa: prego ardentemente Pardo di rivolgere l'appello non a me, non a Biasin, non a Carlo, ma di rivolgere questo appello, dobbiamo provare fino in fondo a vedere di ripartire, lo deve rivolgere, il primo a cui deve essere rivolto è a Malagò, che continua a ripetere come un mantra, trovate la soluzione B, primo. Secondo, io vorrei sapere quale credibilità ha un ministro che ieri sera, non un anno fa, ieri sera dice... vedrete che ci saranno la maggioranza dei presidenti della Lega di Serie A che mi chiederà di interrompere il campionato definitivamente in modo da preparare meglio a settembre quello 21. Io avrei voluto chiedergli, scusi, ma lei è così sicuro che a settembre avremo una condizione tale da poter riprendere senza nessun tipo di problema? Oggi invece scopriamo che la condizione sine qua non è migliorare il protocollo, adesso è un'altra storia. La verità è che non hanno le palle per prendersi una responsabilità del genere, perché le cifre appena citate da Fabrizio farebbero tremare i polsi a chiunque. Secondo, perché non sono abituati a decidere e a nascondersi sempre dietro i famosi Franco, però, perché è oggettivamente, scusami, se mi sono interrotto ti chiedo scusa, è anche oggettivamente una roba senza precedenti, cioè che magari non abbiano l'abitudine a prendere grandi decisioni, posso essere d'accordo, è oggettivamente una questione delicatissima, ma devi avere una bussola, per esempio chi dice che forse è più probabile giocare a giugno e luglio piuttosto che a ottobre. Sì, ma devi avere i quattro punti cardinali, cioè da che cosa devi partire? Dal protocollo? Benissimo. Allora, sin dal primo giorno devi dire, allora, vediamo se si può realizzare il protocollo. Uno, due, da che cosa vuoi ripartire? Dal controllo dei medico-sanitario di tutti i giocatori? Benissimo, ripartiamo da lì. Ma io vi dico in maniera molto leggera, se c'è in Italia in questo momento, tra tutte le categorie che vanno a lavorare, dalla commessa del supermercato fino fino all'infermiera dell'ospedale. Se c'è una categoria che sarà super controllata, super assistita e super coccolata, certo, questo sicuro, questo sicuro. Sì, sì, però c'è anche, da questo punto di vista, c'è anche il risvolto della medaglia, cioè se fra un mese si torna a giocare, diciamo più o meno in sicurezza, io che ho una pizzeria e a differenza dei calciatori avrò l'obbligo di tenere la mia pizzeria praticamente deserta o comunque riempita per un terzo, perché non ci sono le garanzie di sicurezza che invece vengono applicate al calcio, posso alzare la mano e dire scusami, l'ipotesi che il calcio riparta è perché riparte tutto, cioè io non posso immaginare che noi a giugno e luglio avremo le pizzerie chiuse. Perché se avremo le pizzerie chiuse. No, lui dice non chiuse, ma a scartamento ridotto. A scartamento ridotto, anche il calcio sarà a scartamento ridotto, perché sarà sicuramente purtroppo senza pubblico. Appunto. Più che scartamento ridotto, ragazzi, di certo cosa le porte chiuse che mi fanno schifo, ovviamente, tanto per essere chiari, le porte chiuse che mi fanno schifo e che spero durino il meno tempo possibile, perché vuol dire che abbiamo risolto il problema, sono lo scartamento ridotto del calcio. Pino, diciamo che per avviare... anche se chiude la stagione, anche se facciamo campionato, Champions, Europa League miracolosamente, comunque il danno economico e il danno psicologico sul quello c'è sicuramente. La mia sensazione è che per attivare il protocollo non sia sufficiente fare 4-5 cose, ma ne devi fare 800, no? È per questo che secondo me ci sono tanti presidenti che dicono ma siamo pronti a fare questa cosa, cioè possiamo permetterci di fare questa cosa. Fammi dire una cosa, il problema, una premessa, il punto è che il protocollo non diventi il pretesto per prendere una decisione già presa. Ma è il pretesto, scusami Fabrizio, ma tu pensi che davvero la preoccupazione di Cellino, la preoccupazione di Ferrero, la preoccupazione di Preziosi sia la realizzazione del protocollo? Però io stavo andando un po' più su, secondo me ci sono dirigenze anche più prestigiose che hanno qualche dubbio, però per amor del cielo secondo me si deve provare, ma tutti vogliono fare un tentativo. La mia sensazione è che però per esempio la decisione della Francia sia stata un assist in qualche modo per il governo, chiaro, no? Che ha preso, certo, immediatamente. Allora, anch'io ho dei dubbi, secondo me anche Franco ha dei dubbi, cioè io penso che nessuno sia così irresponsabile da dire bisogna giocare, basta, però bisogna mettere in campo tutti gli strumenti che ci sono per provare, così come le aziende automobilistiche proveranno a vendere le macchine, così come le pizzerie proveranno a vendere le pizze, e il calcio deve provarci. Perché se no rimane abbarbicata un'idea, secondo me, abbastanza di piccolo cabotaggio, che faccio due robe, magari mi salvo, no? Magari risparmio due lire, magari le televisioni i soldi me li danno lo stesso, perché in punta di diritto le società dicono che comunque devono pagare la rata, ma potrai pure magari riuscire ad avere i soldi fra qualche anno, ammesso e non concesso, ma poi le televisioni il contratto dopo, ma quanto ti danno? Cioè... È un problema. L'obiettivo di tutti è quello, certo. No, ma è chiaro, perché così può andare allo scontro. Bravissimo, è questo il punto, Pierluigi. Se si fermano Francia, Spagna, Inghilterra, esatto, e Germania, ma ci mancherebbe, allora, siamo gli unici irresponsabili. Allora, è chiaro che sono i cinque grandi campionati europei a decidere, poi mi direte, e il Belgio, che però non ha ancora ratificato quella decisione, e l'Olanda va benissimo, e l'Argentina, ok, dall'altra parte del mondo va bene, però sono i cinque grandi campionati. Per ora, quello che ha detto, chiudiamo, anche se la decisione non è ancora stata ratificata, è stata la Francia, quindi siamo 1-0 per quel fronte lì, se vogliamo continuare con questa disputa. Però quella della Francia è stata una decisione eminentemente politica, è stato il primo ministro che ha detto non si gioca più, e in questo caso la decisione è accettata da tutti. Io fino adesso non ho sentito qualcuno che abbia detto no, non mi va bene questa decisione, il problema del castello che crolla è, devo dire, molto italiano. Cioè, dalle altre parti avranno sicuramente tantissimi problemi, ma a me sembra che la questione coronavirus abbia molto amplificato delle problematiche che già erano in essere nel calcio italiano. Sì, è vero, è vero. Faccio un esempio. Mi risulta però, posso fare un'obiezione? Subito, Franco, mi risulta però che, che in Francia abbiano già un contratto televisivo per gli anni a venire, cosa che in Italia non c'è. Sì, a parte non questo, credo no, l'obiezione mia è, la mia obiezione è questa, è molto semplice. Allora, scusate, perché non è stato adottato allora nei confronti del calcio francese lo stesso provvedimento che è stato adottato per il Tour? Lo sapete perché? Perché il Tour è in assoluto in Europa, dopo la Champions League eccetera, l'evento che produce il maggior fatturato. Il Tour è stato spostato di alcune settimane in avanti. Benissimo. Allora avrebbe avuto un senso se il governo francese avesse detto: allora per ora non se ne parla, prendiamo il campionato, lo concludiamo e lo spostiamo a giugno, a luglio, quando volevano. Il problema vero è che in Francia a livello di opinione pubblica viene davanti a tutti il rugby, subito dopo il ciclismo e poi segue il calcio. Sì, questo sì, il Tour, è chiaro che la Francia ha detto si ricomincia a giocare dalla fine di agosto, dal primo di settembre, eccetera, eccetera, però lì ci si è spinti oltre perché si è detto il campionato termina qui, l'anno prossimo si parte con una stagione nuova. Antonio Como, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo grazie. Dire una cosa, sì. Che personalmente penso che si poteva gestire tutto quello che è l'accesso chiuso con biglietto a porte chiuse tranquillamente, potevi gestire a livello televisivo magari mettere un po' più in chiaro, un po' più gratuitamente le partite, farle al sud o nel meridione o in Sardegna o in Sicilia a porte chiuse. Il campionato doveva continuare come doveva continuare tutto quello che è sotto controllo di biglietto a porte chiuse. Per me si poteva fare, si annoiava di meno la gente. Ovviamente Milan-Inter lo puoi giocare a Palermo, che problema c'è? Lo fai vedere in sì, televisione, problema, lo puoi Antonio, giocare a Catania. Sì, ci sono gli alberghi, ci sono i viaggi, ci sono gli aerei, c'è il contagio. Non è così semplice. Io apprezzo molto lo spirito e l'ottimismo, perché è uno spirito pieno di entusiasmo. No, ma addirittura mi pare che l'ascoltatore dica una cosa che sinceramente mi sembra oltre, cioè si poteva non interrompere addirittura nulla, il che sì, esatto, mi sembra un po'. Mi sembra eccessivo. Oltre. Io dico è complicatissimo. Io vedo questi politici che si azzuffano dalla parte e dall'altra. La situazione è complicata, non è facile. Nessuno di noi, io non sarei, ma infatti guarda, in grado, posso dirti Pierre, non invidio chi deve prendere delle decisioni. Esatto, la cosa però, bella adesso però è non mi piace chi tra virgolette utilizza questa roba qua per andare in una direzione o l'altra, secondo me in maniera un po' ideologica, non so come dire, per giocare a tutti i costi anche col massimo rischio, perché ha parlato col virologo, oppure a non giocare proprio perché magari pensa che tanto le TV alla fine pagano, che lui risparmia qualche soldo. La decrescita felice. Ecco. Dobbiamo provarci, dobbiamo capire che il danno c'è ed è un danno enorme. Poi ripeto, è molto importante l'aspetto internazionale, perché è chiaro che se si fermano tutti, da un lato la crisi diventa più profonda perché diventa una crisi di sistema, dall'altra però è anche ovvio che dal punto di vista della competitività del nostro calcio, danno per tutti, non è che sia mezzo gaudio, però significa che almeno i rapporti di forza fra un paese e l'altro non vengono meno. Sì. Ma se noi fossimo fra i pochi che si fermano con gli altri che vanno avanti, bravo, esatto, è quello. No, ma anche perché c'è, a chi dice non c'è certezza di date, le date ci sono e sono abbastanza certe, cioè per chiudersi le stagioni devono iniziare non più tardi di metà giugno, perché l'UEFA ha detto che entro l'inizio di agosto deve essere terminato tutto. Questa è una data. 25 di maggio l'UEFA vuole sul tavolo un piano di ripartenza o una dichiarazione di non ripartenza. 25 di maggio. La stessa UEFA, tra l'altro ragazzi, ha lasciato in piedi le coppe, perché l'UEFA dice ad agosto si giocano le coppe europee, dunque... Se questo dovesse essere confermato, si UEFA farà di tutto. Però da questo punto di vista, conoscetemi, Galliani ha detto una cosa assolutamente corretta, cioè il fatto di aver messo una data limite per la chiusura dei campionati è stata, secondo me, è stato un autogol clamoroso, perché significa che tu stai forzando la mano a, a tutti i campionati. In questo momento, se uno dice vabbè, mi avete messo il paletto 3 agosto, facciamo così, chiudo tutto, arrivederci. Sì, però da questo punto di vista è evidente che la UEFA a che cosa punta? Punta a completare la stagione delle coppe e a fare il girone, perché il girone gli vale 400 milioni. Il problema vero sarà che a un certo punto, siccome tutti i paesi che hanno un orologio diverso dell'inizio del, del contagio, quindi è impensabile che si possa giocare tutti nello stesso periodo. Allora, secondo me, comunque, il famoso traguardo del 2-3 agosto che è stato fissato in questo momento dalla, dalla UEFA sarà ritoccato in avanti, inevitabilmente. E poi, comunque, secondo me, è molto più utile immaginare e pensare a completare sul campo il campionato per evitare la coda di ricorsi, cause, eccetera, anche nei confronti di Sky, il cui contenzioso con la Lega, ve lo dico in maniera molto educata e molto, come dire, tenue, il contenzioso influisce in questa vicenda, chiudo o non chiudo, influisce in maniera incredibile su questa vicenda, chiudo o non chiudo. Allora, vi dico che secondo me, se da parte dell'UEFA c'è anche la disponibilità a fare un piccolo sacrificio, magari come dire, dimezzando il famoso girone iniziale, pensare di far concludere comunque regolarmente le stagioni, perché se vanno le coppe, ma mi dite Paris Saint-Germain e Lione cosa fanno? Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain dice vuole fare la coppa, può andare ad allenarsi in Qatar, leggevo. Sì, hanno già detto così. Ecco, sì, ma è chiaro che il ritmo partita è un'altra cosa. Sì. Ma ragazzi, la soluzione perfetta non c'è. No, non, esiste, soluzione perfetta non esiste, non c'è. Non esiste. Anche perché ragazzi, qua ogni virologo, giustamente, nella scienza non è una, appunto, non è una scienza esatta. Siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo. Ci sono virologi, per esempio, che pensano che il virus ci darà una tregua durante l'estate e che poi magari a ottobre-novembre si riproporrà. Allora a questo punto è più sicuro e più conveniente giocare d'estate. No? Parliamoci chiaro, ma un medico sportivo, un medico di club non darà mai l'ok, perché non può assumersi questa responsabilità. Cioè questa cosa, se la chiediamo ai medici dei club, ci diranno sempre non si può giocare, anche perché c'è un rischio di responsabilità dei club stessi che bisogna tenere presente. Cioè se succede qualcosa e un atleta rimane contagiato, può rivalere sul club, e questa cosa va trattata in qualche maniera. Ci sono un sacco di aspetti, aspetti giuridici che sono mescolati tutto questo. Ragazzi, vi saluto tutti quanti. E saluti, è stato bello. È tornata la fidanzata. È appena rientrata. Ho sentito adesso. Ma sì, meraviglioso, è davvero il giorno delle buone notizie. Lui che fa una cernita delle cose che c'ho sopra. Vado a vedere, perché so che ci sono tante scarpe, però tu porti il 55 e che me ne faccio io? La fidanzata ha sentito che voleva rivolgersi al dell'Arsenal ed è tornata di corsa. Comunque volevo dare un annuncio in diretta nazionale. Io dopo 24 anni oggi mi sono pettinato. Attenzione, aspetti di ricongiungerti con Ordine lunedì, e quindi sei portata avanti quella volta. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ci fermiamo per la borsa, torniamo. Ma è possibile che bisogna farsi insegnare le cose dai francesi che ci sono arrivati a sorprendere la Ligue 1? Non possiamo farlo anche noi? Ciao! Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. If you guys remember in 1984 when they drafted Michael Jordan, I said then when I got here that we'll be champions by the time I leave. Here they are. But we're a 5-time champion going for 6, and we need your support. Thank you very, very much. I'm one of the best players to ever play the game. I understand what my value is to this game. You're very underpaid, though, as one of the top players. What do you think your value is in terms of... My day will come. My day will come. Michael and Scott have accepted me for who I am. They said, you know what? He does what he does, but he cares a lot. I go party hard, but I'll work hard. We want to win. We want to win a championship. Phil Jackson has been a very integral part of this organization. He's now ready to be a head coach. Welcome, coach. Thanks, Jerry. Have you talked to Michael Jordan yet? Yes, I have. What do you say? Congratulations. Let's go win a championship. Non avete le immagini, ma ve lo dico io, le voci che avete sentito sono nell'ordine: Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson. È bello ogni tanto, ci sono cose belle in questo periodo, ho detto oggi voglio parlare solo di cose belle, voglio fare anche cose belle come riabbracciare pubblicamente, virtualmente per il momento, i miei amici come Michele Dalai. Ciao Michele. Eccomi, ciao Carlo. Ti Davide Pessina, ti abbraccio. Ciao Davide. Ciao Carlo, ciao Michele. Vabbè, allora io abbraccio il Pest anche. Esatto. Un abbraccio collettivo. Grande abbraccio collettivo in attesa di quello vero. Prima cosa, e prima di cominciare a parlare di un'altra cosa meravigliosa come The Last Dance, quello che ci ha... Io seguo attentamente Michele Dalai, per quanto scrive. L'altro giorno ha scritto: per due ore mi sono dimenticato di avere un telefono. È da tre mesi che vivevo col telefono in mano. Però prima di parlare di questo, la vostra posizione di politica sportiva, situazione attuale, Michele. Guarda, io sto lavorando con Roberto Burioni da due anni, quindi ho una posizione che non è così neutra. Io capisco tantissime, capisco davvero le esigenze. Vi ho ascoltato prima. Sono tutte posizioni molto ragionevoli, purtroppo un convitato non di pietra ma molto molto pericoloso e mobile, che è questo virus, quindi in realtà rischia di far saltare qualsiasi pianificazione, anche la più accurata, il che rende tutto molto complesso. La verità è che credo che si dovrebbe fermare in attesa che questa cosa diventi un ricordo dolorosissimo, ma un ricordo. Queste sono decisioni che deve prendere la politica, e deve prendere la politica dello sport, sapendo che non esiste un protocollo sicuro, non esiste uno veramente sicuro in questo momento, quindi è una scelta complessa, perché poi doversi rifermare dopo aver messo in piedi una simulazione fatta come quella del calcio senza lo pubblico, del calcio asettico che non esiste, doversi fermare di nuovo sarebbe, quello sì, davvero drammatico. Certo. Davide? Concordo, di base concordo, la prima cosa è la salute, se riparte credo sia esclusivamente un motivo economico, comprensibile, giusto e legittimo, però a livello sportivo è tutto mai più che compromessa questa stagione. Sarebbe a logica, a me verrebbe da dire, ne riprendiamo l'anno prossimo quando e se ci saranno le condizioni per rigiocare in totale sicurezza e possibilmente con gente a vedere. Però ripeto, capisco le esigenze economiche di club, società e così via. Sì, anche dell'NBA poi ne parliamo, che la cui ultima meravigliosa oppure stramba idea è quella di finire la stagione a Disney World, ma ne parliamo dopo. Intanto torniamo a quel telefono che hai lasciato stare per un paio di d'ore, Michele. C'è questo docufilm, più film che docu o più docu che film, vedete voi, sull'epopea di Michael Jordan, che, e questa credo sia la cosa strana, se vuoi, rapisce e fa dimenticare il telefono non solo a te ma anche a ragazzi che non erano ancora nati a quel tempo. Guarda, io ho avuto la grande fortuna di viverla da lontano, di vederla, di vedere anche qualche partita in America, di averlo visto giocare, e quello che ti posso dire è che in due mesi orrendi come questi, cui poi il telefono è sempre il ponte verso un mondo terribile, pieno di notizie angoscianti e che fatichi a lasciare, perché tutti noi cerchiamo speranza e non abbiamo trovato speranza in questi mesi. Mi ero dato la consegna di lasciare giù il telefono guardando la stessa, ma poi in realtà in genere anche per altre cose l'avevo sempre ripreso. Qua no, è stata una specie di ipnosi che un po' è il ritorno all'adolescenza e un po' è quell'uomo che è oggettivamente magnetico. C'è qualcosa di magico davvero in quello che ha fatto, con una caratteristica che anche quelli come me, come te, che l'hanno vissuto magari lui molto più da vicino, non l'avevano mai sentito parlare così tanto, tranne che alla sua orazione bellissima, elegia per Kobe. E quindi c'è la magia nella magia, no? scoprirlo ora, a tanti anni di distanza. No, ma quello che dici tu vale esattamente anche per me, perché credo per Davide Pessina, che però ha un altro osservatorio, perché ha la mia stessa età, classe 68, però in quegli anni li ha vissuti da grande giocatore, no Davide? Sì, no, mi ha fatto tornare ovviamente a quando ero più giovane, giocavo e mi sembrava tutto più bello. Però mi ha fatto tornare in mente nitidissima la sensazione che avevo allora quando vedevo una partita di Michael Jordan. Non era se vince, era adesso andiamo a vedere come vince. Perché tu già sapevi che vinceva. Ma sai, lo dico io, va bene, ero un giocatore italiano che le guardava da qua, lo diceva Pat Riley. Dopo l'ennesima serie dei New York Knicks perse, ha detto, signori, finché c'è quel signore lì che gioca, vince lui, rassegniamoci. Sì. E questo mi ha fatto tornare proprio nettissima quella sensazione, che fosse oltretutto bello da vedere, elegante, fortissimo, tutto quello che vuoi, e che poi vinceva lui. Sì, confesso di aver letto tutto di quel periodo lì, fino adesso ho trovato pochissime cose che già non conoscessi, perché sono profondamente appassionato di quel periodo, di quella squadra, di quel giocatore, ma anche di quella squadra, perché adesso ci concentriamo su Michael, no? Però quella squadra credo sia stata la più forte di ogni epoca. Siete d'accordo anche tu, Michele, che da tifoso dei Celtics? Ma guarda, la risposta è che non lo so, però la risposta dentro la risposta è sì, ma per un motivo, perché l'empatia provata per quella squadra, cioè la facilità con cui ho accettato i successi dei Bulls non mi è mai più ricapitata con nessun'altra squadra. Viene da lui, viene dalla sua incredibile capacità di mettersi al servizio degli altri, viene da Michael Tolley di questa serie, ha fatto una cosa incredibile, cioè riuscire a spiegare il meccanismo, ma poi questo il testo sa molto meglio di me, il meccanismo per cui si rompe qualcosa in una carriera lineare di un giocatore di provincia che poteva essere un ottimo giocatore, e quelli che sono i pungoli nascosti, il padre che gli dice non sai fare niente, la sua voglia di conquistarlo, la lotta in una stagione e crescere 10 centimetri in un'estate, è come per Kobe, sono tutte cose che abbiamo raccontato, ma è bellissimo vedere che succedono. Cioè, quando lui decide di mettere su dei muscoli, a me fa molta tenerezza con l'idea di tenerezza, ha detto, del più grande di tutti i tempi, e lui decide di mettere su dei muscoli per picchiare Detroit Pistons, è una cosa incredibile, eppure anche lui è in quella condizione. Ecco, devo dire che la bellezza della squadra più grande di tutti i tempi, non i giocatori, forse il più grande di tutti, è quella di averlo umanizzato. Cioè, noi lo sapevamo che era divino, ma raccontarcelo come umano è un passaggio bellissimo. No, poi c'è anche un altro punto, lo chiedo a un giocatore, perché noi guardiamo la squadra in campo, poi ascoltiamo quello che ci dicono, noi siamo tutti amici, eccetera, però lì ci sono anche intrighe che sono da film, no? I motivi per cui una squadra professionistica si sfalda, anche lì, specchio della vita, ripicche, gelosie, invidia, soldi, Davide? Sì, sì, certo, non c'è dubbio, ma mai... Le grandi squadre, anche le più vincenti, sono senza frizioni, senza tensioni, senza anche discussioni animate tra compagni, diffidate da quelli che dicono abbiamo vinto perché eravamo tutti fratelli, no? Perché comunque è giusto e sano anche, in un allenamento magari non dico ti metti le mani addosso, però ci arrivi vicino, però quello chiarisce, in qualche modo chiarifica l'aria, perché dopo vai meglio, però alla fine è normale, metti in una zona chiusa 10, 12, 15, a seconda dello sport, persone follemente competitive, è impossibile che siano tutti amici, fratelli, però c'hai un obiettivo comune e alla fine è quello che fa la differenza, e hai l'intelligenza di capire che un minimo del tuo ego lo limi e per il bene di tutti, lo fa chi più e chi meno, e la cosa più importante è accettare ognuno il proprio ruolo, non sono tutti Michael Jordan, accettalo, è meglio per te e per tutti. Volevo dire una piccola cosa su quello che dicevi prima tu, Carlo, sul fatto che sia o meno la squadra più forte di tutti i tempi, io questo non lo so, perché è veramente difficile paragonare. Poi ieri diverso, sono cambiate le regole in NBA, cambiato tante cose. Però sono i Beatles. Sì, esatto. E questa è la cosa che colpisce. Questi sono i Beatles, sono la squadra più famosa. Cioè Michael Jordan ha portato a un altro livello il marketing sportivo. E quei Beatles, quei Bulls erano i Beatles. Per Rodman, per Pippen, per Phil Jackson, per Jordan. Andavano in giro e avevano un seguito, un'isteria collettiva come non si era mai vista prima. E forse non si è più vista. No, sono d'accordissimo, la penso esattamente allo stesso modo e continuo a pensare che è chiaro che i paralleli epocali, no Davide, i paragoni epocali sono sempre sbagliati, fuorvianti, sono semplicemente un gioco per passare il tempo, certo. Però ci sono anche dei numeri, no? Quella squadra, quello che dici tu è sacrosanto, Michael Jordan è il più grande sportivo ogni epoca, io credo di sì, tu racconti la NBA di adesso. Ecco, l'altro giorno leggevo una cosa: il suo brand ha fatturato per la Nike nel 2019, Jordan ha smesso qualche mese fa, direi, il quadruplo di quanto ha fatturato LeBron James, che è testimonial di punta della casa col baffo stessa. Quindi è una cosa che dura ancora, Davide. Certo che dura, ma assolutamente, il suo brand è unico. Ma poi anche il fatto che tanti giocatori di punta firmino non per la Nike ma per la Air Jordan, perché ti chiama lui. Se ti chiama lui ancora adesso dici: pronto, sono Michael Jordan. Sì, certo, sono il papa. Perché comunque è così ancora per i giocatori di oggi, per la maggior parte perlomeno. Sì. Perché ne hai sentito parlare, hai visto, e immagino che questo documentario, chiamiamolo come vogliamo, per i pochi che non l'hanno visto giocare, non hanno vissuto quello che lui era e i Bulls erano, è un'altra straordinaria iniezione di popolarità. Sì, ti dico, lo guardano grandi e piccini, proprio per questo. Ma non c'è dubbio. Un'ultima cosa, poi se ha tempo Michele me lo tengo anche dopo il traffico, ma volevo chiedere a Davide Pessina invece sulla, abbiamo detto della, tornando all'attualità, della situazione attuale per il calcio e lo sport qui. L'NBA sta cercando in tutte le maniere di finire la stagione dove non si sa. Lì come la vedi? Lì sono una lega molto progressista, molto all'avanguardia. Sono quelli che sono fermati per primi. Al primo caso di positività hanno fermato tutto, senza nemmeno parlarne. È chiaro che hanno una catena decisionale piuttosto snella, sì, rispetto a, per dire, il calcio e varie cose. Però è chiaro che tutti sapevano che avrebbero perso dei soldi, però tutti sapevano che quella era la cosa giusta. Adesso sono in attesa di avere, immagino, notizie dal governo quando riapriranno un po' e poi faranno i loro calcoli. Hanno rimandato di una settimana l'apertura delle facilities per andare a allenarsi, cioè dal 1 all'8 maggio, perché anche lì c'è differenza tra Stato e Stato. In Georgia, Atlanta hanno già aperto praticamente, se vogliono i giocatori degli Atlanta Hawks possono andare a allenarsi, però giustamente la squadra ha detto: no, aspettiamo un attimo, cerchiamo di capire e poi vediamo. Qui torniamo al discorso di prima, è chiaro che hanno già fatto un calcolo, $1 miliardo ballano, se finire o meno la stagione, per cui insomma cercheranno di finirla in tutti i modi. È chiaro che possono fare, come dicevi tu prima, a Disney World se si può, a Las Vegas che è vuota, ci sono solo alberghi di lusso e 3 palestre enormi dove giocare, quella dell'Università del Nevada e compagnia, per cui in qualche modo potranno provare a farlo. È chiaro che dipende dai tempi, poi anche in questo loro sono più elastici, perché se loro decidono e finiamo a metà agosto, cioè, alla fine va bene a loro, non è che devono chiedere permesso a chissà chi. Anzi, qualcuno sta cominciando a dire: attenzione, però, usiamola anche come opportunità questa cosa qui. Proviamo ad andare fino a metà agosto e magari questo tipo di programmazione nel calendario potrebbe rimanere, perché loro, ovviamente, la cosa che vogliono fare è andare meno possibile contro l'NFL, contro il football americano, che è lo sport che televisivamente va di più, che comincia a settembre, ma il contratto finisce a fine gennaio. Sì. Se loro spostano l'inizio invece che a metà ottobre, a Natale per dire, e finiscono agosto, vanno molto meno contro il football. Sì, certo. Per cui potrebbe essere un vantaggio per loro. Per cui hanno lo studio, e questo secondo me fa la differenza tra le leghe davvero all'avanguardia, fanno studi che vadano oltre domani, cioè ripartiamo e finiamo la stagione e poi ritorniamo da capo. Certo, vediamo, questo ci può portare ad avere altri benefici in un altro modo. Grande invidia, hanno anche, come dicevi prima, grande agilità e facilità di valutazione. Grazie Davide, ti abbraccio di nuovo. Grazie a voi, un abbraccio a presto. Tutti. Ciao Davide Pessina. Michele, hai 5 minuti? Ci sono. Benissimo, traffico, torniamo. Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Immagino questa musichetta ad aprire le partite NBA a Disney World Orlando, Florida. Michele, sono molto curioso di sentire la tua opinione su questo punto, ma ti voglio aggiungere ulteriori spunti di cronaca con Simone Sandri, che è collegato da New York. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Ciao, stiamo parlando di situazione attuale, possibilità di ripresa dei campionati negli Stati Uniti o di inizio dei campionati negli Stati Uniti e questa bizzarra idea dell'NBA e della Florida. Sì, è praticamente il piano, diciamo il piano B, se vogliamo considerarlo tale, più gettonato. La città di cui si era parlato all'inizio ovviamente è stata Las Vegas, che poteva mettere gli atleti in una bubble, in questa bubble della quale Silver sta cercando di capire se è la soluzione migliore per venire incontro alle esigenze di questa nuova realtà dettata dal coronavirus. Adesso credo che Orlando abbia superato Las Vegas come città candidata, se vogliamo considerarla così, per una serie di motivi. Per il fatto che sia più semplice, sembrerebbe più semplice poter avere tutti i giocatori e forse anche le famiglie nello stesso luogo. Il fatto che a Disney si parlerebbe di un'entità privata e non quindi di una municipalità come a Las Vegas con i pro e i contro, e hai anche il fatto che ovviamente Disney di proprietà ha la proprietà della ABC e della ESPN, quindi anche da un punto di vista mediatico sarebbe più semplice avere gli studi televisivi, avere anche una serie comunque di facility sportive, cioè di impianti sportivi di grande livello, perché Orlando, uno dei parchi di Disney, è proprio un parco sportivo che si chiama Disney World of Sports, per cui risolverebbe una serie di problemi e permetterebbe anche ai giocatori di avere con loro la famiglia, che è uno degli elementi di dissenso tra l'associazione giocatori e l'NBA. Michele Dalai, abbiamo detto tutto, il quadro che abbiamo dipinto è questo. Pessina ha detto, ha espresso il suo pensiero, Simone Sandri ci ha fatto una fotografia della situazione attuale, la tua opinione qual è? Allora, cioè, ci sono due opinioni, una è quella del tifoso e della mia coperta di Linus è sempre stata l'NBA, quindi messi a letto i bambini, chiusa la giornata, per me significa tornare io bimbo e guardare di notte l'NBA, e mi manca moltissimo, soprattutto in questo momento, questo profilo emotivo, non tanto... non è tanto intelligente come osservazione. L'altro è che evidentemente stanno mettendo a punto delle misure talmente straordinarie da poter funzionare. Non so quanto queste misure straordinarie che possono funzionare mantengano intatta la magia del gioco. Cioè, io credo che il grande equivoco, Carlo, sia capire se lo sport deve andare avanti in quanto forma di intrattenimento e per il suo pubblico, o deve andare avanti perché sennò crollano le fondamenta del sistema. E siccome è la seconda la risposta, noi siamo anche in questo caso degli spettatori senza particolare arbitrio. Mi chiedi se guarderò o no quelle partite? Forse sì, perché verranno in un momento in cui presumibilmente si spera, tutto fa sperare che questo virus vada in remissione, sia un fenomeno sempre più piccolo, più circoscritto e più limitato, i nostri pensieri siano più liberi e quindi un palazzetto vuoto ci faccia pensare al fatto che sarà pieno dopo pochi mesi e non al fatto che è finito tutto come se avessimo giocato il mese scorso. Questo è l'unico fattore per cui ti dico che spero che ricomincino in un momento migliore, cioè tra poco. Per il resto è tutto diverso da come dovrebbe essere, soprattutto gli sport professionistici americani vivono della simbiosi con il loro pubblico, che è parte dello spettacolo, e quindi mancherebbe tanto, mancherebbe moltissimo. Tutto qua, questo è sì. Tutto, unendomi anche alle considerazioni del PES, cioè che riprendere dopo tre mesi è strano, no? Non è più la stessa stagione, però... Non è più la stessa stagione, però diceva anche Davide questo, e mi rivolgo a Simone Sandri, può diventare quasi un'opportunità di esplorazione del futuro per l'NBA, Simone. Sì, è possibile soprattutto a livello di calendario, perché l'NBA farà di tutto per cercare di finire la stagione, è piuttosto disposta a spostare il calendario anche nei prossimi 3-4 anni, a rivedere il calendario per i prossimi 3-4 anni, perché ha bisogno, da un punto di vista economico, anche... da un punto di vista sportivo, perché la spinta dei giocatori è quella di cercare di finirla questa stagione. L'idea magari di ricominciare addirittura quasi a fine agosto e settembre per poi fermarsi e ricominciare la stagione prossima a gennaio o a Natale. Questo potrebbe avere ripercussioni per il futuro. Ovviamente non giocare ha delle ripercussioni per il futuro, perché la salary cap è dettata dagli introiti dell'anno precedente, per cui vorrebbe dire che se non si giocasse magari la prossima salary cap sarebbe del 20% inferiore, ed è un problema ovviamente un problema relativo rispetto ai problemi attuali del che sta vivendo il mondo, ma è un problema per tutti i GM molto grave, perché vorrebbe dire un riflesso sul signing dei free agent, un riflesso comunque sulla composizione dei roster. Quindi anche a livello competitivo avrebbe, non finire la stagione avrebbe dei problemi per gli anni a venire, per cui ci sono delle valutazioni molto importanti e molto difficili da fare, e sono abbastanza d'accordo. Come viene trattato lo sport negli Stati Uniti a livello di opinione pubblica? Come qui, come uno scomodo intruso qualche volta, o gli si dà un peso specifico diverso? Secondo me c'è un peso specifico diverso, si valuta molto di più l'aspetto di business come una cosa importante. Ieri Fauci nell'intervista al New York Times lo diceva che fare una classifica morale è pericoloso, perché è vero che ci sono i servizi primari che stanno davanti a tutti, però se poi scendiamo da questo gradino, considerare che un'azienda che produce sport sia diversa da un'azienda che produce altre cose è molto complicato, per cui c'è questo aspetto sportivo del fatto che comunque lo sport intorno allo sport gravitino lavori di persone vere, che va al di là ovviamente soltanto dei protagonisti sportivi, perché, e in più c'è l'aspetto diciamo, se vogliamo, di psicologico nei confronti della gente, l'idea di tornare a una nuova normalità guardando lo sport. Questo è un fatto anche importante, soprattutto per gente che è stata chiusa in casa per quasi 2 mesi. Certo. E pensare, Michele, che quest'anno per i Celtics poteva essere l'anno buono. Ma potrebbe ancora, io guarda, una piccola postilla, aspettando, sì, che Simone, cioè, è molto chiaro per me, guarda, che gli americani stiano affrontando questo discorso con grande lucidità viene anche dalla sincerità con cui lo affrontano. Bravo. Cioè, vi ascoltavo prima, non c'è uno dei singoli attori del calcio italiano che stia dicendo quello che veramente pensa. E se anche questa cosa potrebbe apparire orribile, perché alcuni vogliono giocare per non fallire, alcuni vogliono giocare, alcuni non vogliono giocare per non perdere, per non retrocedere, se lo dicessero sarebbe tutto più chiaro e forse potremmo affrontare le cose in un modo più intelligente. Invece questo paternalismo per cui ognuno lo fa per non ammalarsi, per evitare che, oppure quelli che vogliono ripartire perché sennò fallisce il sistema, annacqua la discussione e non si capisce più niente. Sarebbe apprezzabile un po' più di sincerità, almeno in un momento come questo, perché sennò significa non ripartire mai nel senso in cui intendiamo noi. Certo. Significa restare la stessa cosa. Certo. Speravo che il calcio cambiasse, guarda, davvero, di cuore. Ragazzi, vi abbraccio una volta di più. A te, Michele Nanai, e a Simone Sandri, dall'altra parte dell'oceano, molto più lontano. Ciao Simone, grazie. Noi ci fermiamo qui. Domani, 1° maggio, faremo festa anche noi. E comunicazione di dovute di servizio. Settimana prossima non ci sarò, ci sarà Giovanni Capuano qui a fare tutti i convocati, e quindi ci sentiamo il lunedì quell'altro, aspettando dalla finestra di vedere cambiare qualcosa in positivo. Grazie a Laura Vanossi e ovviamente al nostro autore Claudia Schiattone, grazie a Roberta Frisani in regia. Ci sentiamo con me lunedì l'altro, non ricordo la data, comunque immagino il tratto. Ciao a tutti. È stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.